È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di collesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. Mi metti allegria, mi metti allegria, caro Parenzo, mi metti allegria. Siamo qui in diretta con la Zanzara, anche in questo ponte. Ma siamo in versione ridotta, cioè finisce tra mezz'ora, no? Ma che versione ridotta? Fino alle 21, indefessi, indefessi fino alle 21 con la Zanzara qui su Radio 24. Allora, sai che è veramente, no, volevo dirtelo, è una buona trasmissione. Vabbè, ci sono anche delle belle idee, delle cose, gli audio che mandi. Senti, ti faccio sentire un Iachetti. Uno Iachetti in versione grillo. In versione grillo, con due vaffa, subito veloci, veloci. E devo dire che il signor Iachetti, per carità, un abbraccio. Diamo un abbraccio al signor Iachetti, un abbraccio fortissimo, molto forte fortissimo da parte delle Zanzare. Un abbraccio, però insomma si informi anche meglio prima di fare una polemica, poi si può mandare a quel paese chiunque, però quando uno manda a quel paese una persona magari sarebbe il caso di informarsi un po' meglio. Iachetti. Questa settimana pare che alla Camera dei Deputati, che ha già 4.600 dipendenti, sono stati assunti altri 33 dipendenti, quindi vaffanculo Brunetta. Poi leggo sul Corriere di ieri che la Russa ha comperato 19 Maserati blindate per trasportare dei generali. E allora diciamo vaffanculo anche alla Russa. Allora, la storia di la Russa è vera, c'è l'acquisto da parte del Ministero della Difesa di 19 Maserati. Criticabile naturalmente, eccetera eccetera. Poi perché il Maserati deve il Maserati? Vabbè, il vaffa però è un altro discorso. Poi su quello giudicate voi. La storia di Brunetta è completamente falsa, perché le assunzioni ci sono state non alla Camera dei Deputati, bensì alla Presidenza del Consiglio, e pare che poi c'è stata tutta una spiegazione di Brunetta dopo un articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, non siano nemmeno assunzioni perché in realtà sono semplicemente delle sostituzioni e sono uscite più persone di quante non le siano entrate. Vabbè, ma lasciamo perdere i dettagli. Comunque restano i vaffa di Iachetti, che si è trasformato improvvisamente in una sorta di grillo, in una sorta di grillo. Poi ci sono state risposte, portavoce, sentiremo più avanti. Dove andiamo adesso? Ma io vado a Querce Grossa, nel Chianti. Tu vai a Querce Grossa. Sai chi abita a Querce Grossa? Chi abita? Il signor Antonio Socci. E chi se ne frega? No. Mandavo un'informazione agli amici della Sole 24 Radio 24. Antonio Socci, intellettuale. Renzi, andiamo da Renzi. Ah, che dici? Renzi, bravo, mi piace molto. Renzi. Il PD come non ci resta che piangere. Sentiamo Renzi. Il Partito Democratico è come non ci resta che piangere. Io delle volte, quando sento parlare autorevolissimi amici del nostro partito, mi sembra di ricordare sempre una scena di un film noto. Mi mandi, Franco, il film e non ci resta che piangere. Allora, mo ce lo segniamo, abbiamo capito. Però noi pensiamo che sia di centro-sinistra dire che questo mondo globalizzato offre anche tante opportunità al nostro paese. Questo è un mondo che reclama bellezza. Un po' vendoliano qui, eh? Un mondo che reclama bellezza. Il PD andava bene nel Novecento. Sentiamo ancora Renzi. Il PD andava bene nel Novecento. Il modello di centro, di Partito Democratico, per cui ci sono i dirigenti del partito che danno la linea agli eletti che stanno nelle istituzioni, i quali eletti sono poi chiamati a fare il volantinaggio per spiegare agli elettori quello che devono pensare, andava bene nel Novecento. È un meccanismo di partito che non funziona più. Va bene, va bene, c'è tanta altra roba. Il duetto, con, Renzi, con Bersani, usato anni 80. Renzi è usato anni 80. Sentiamo anche Bersani, ma usato anni 80. Dico solo, attenzione, ecco, di non scambiare per nuove delle idee che sono un usato degli anni Ottanta. E infine, infine, prima di introdurvi il primo ospite della serata, Maurizio Sacconi, una delle frasi del giorno, anzi del weekend, sulla questione dei licenziamenti: ho paura di violenze e omicidi. A Maria Latella, sentiamo. Ho paura, ma non per me, perché sono protetto. Ho paura per persone che potrebbero non essere protette e proprio per questo diventare bersaglio di una violenza politica che nel nostro paese non si è del tutto estinta. Oggi vedo una sequenza dalla violenza verbale alla violenza spontanea alla violenza organizzata che mi auguro non arrivi ancora una volta anche all'omicidio, come è già accaduto l'ultima volta 10 anni fa proprio con il povero Marco. Bene, qualche minuto fa lo stesso Sacconi ha detto che ci sono dei nuclei clandestini che operano per la rivolta, lo ha detto pochi minuti fa. Lo sa lui e non lo sa Maroni? Vabbè. Non lo so, ma vedremo. Vabbè, è con noi dalla sua macchina Sergio Cofferati, europarlamentare del Partito Democratico, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come sta Cofferati? Bene, grazie. Si trova in Italia, sì? Sì, sì, sì, adesso sì, una settimana sì. Grande lottatore Cofferati. Allora, vogliamo iniziare da Renzi. Sì. Cosa, ha detto qualcosa di nuovo la Leopolda a Firenze oppure è rimasto tutto come prima, secondo lei? No, di nuovo non ho trovato nulla per quello che ho letto dai giornali o l'ho sentito dalla televisione. Cioè, ci sono idee o non ci sono? Proposte non ne vedo. Vedo l'agitare di alcuni temi in modo molto generico. Peraltro concatenate queste allusioni, perché non c'è mai nulla di preciso, di dettagliato, descrivono un profilo del tutto legittimo ma molto lontano da un'idea di centrosinistra che io come altri penso abbiamo. Cioè secondo lei Renzi, le idee di Renzi, anche se secondo lei non sono nemmeno idee perché non sono precisate, no? Sono così, cosa, come le possiamo definire le cose che dice Renzi? Slogan? Titoli? Titoli? No, a volte sono dei titoli. A volte sono ipotesi molto generiche, dunque è difficile chiamarle delle proposte. Le proposte sono cose più precise, più dettagliate. In ogni caso, questi titoli o queste ipotesi da dettagliare che lui propone non mi pare che abbiano il profilo di un centrosinistra, per quanto dinamico e moderno. Cioè, sono legittime, ma sono un'altra cosa. Sono un'altra cosa rispetto al centrosinistra. Ma nel PD ci posso, cioè, Cofferati e Renzi possono stare alla luce di quello che ha detto al Big Bang, alla Leopolda, ecco, cioè, possono stare nello stesso partito. E questo è interessante, cioè se Renzi dovesse, se Renzi dovesse, no prego Parenzo, grazie, no, ogni tanto fai qualche domanda intelligente, come dice il signor Prodi, sì, ogni tanto fai qualche domanda intelligente, grazie, beh, grazie, raramente è molto attento, raramente, però so, ogni tanto le fai. Allora vuole traduco perché ogni tanto Parenzo è fumoso. Questa volta era chiaro. Cioè, possono, se Renzi dovesse conquistare il Partito Democratico attraverso la democrazia, naturalmente non con le baionette, lei potrebbe rimanere all'interno del Partito Democratico? Ma io credo che Parenzo abbia una sensazione giusta. Appare abbastanza paradossale che persone che hanno le opinioni che cerco di esprimere con la chiarezza del caso, e perché credo di non essere l'unico, e Renzi siano nello stesso partito. È una contraddizione che può non durare in eterno, può arrivare prima o dopo, non so quando, ne so come, ad uno scioglimento, ad una divaricazione risolutiva. Io penso che Renzi voglia farci un partito, la mia può essere un'opinione sbagliata, addirittura maliziosa. Ma vuole sfasciare il Partito Democratico? No, sfasciare no, perché se Renzi si dovesse fare una formazione politica non sfascerebbe nulla. Il Partito Democratico resterebbe con quelli che decidono di continuare a partecipare al Partito Democratico. Dunque, per se quello Stato, visto che siamo dallo stesso partito, che ci sono opinioni molto molto lontane. Questa divaricazione, questa lontananza può non durare in eterno. Cioè è anche normale che non duri in eterno, cioè non vi vedete, cioè lei non ce lo vede Renzi nel suo stesso partito, che ne so, nei prossimi anni? È difficile che si possa rimanere no? O sbaglio? Ma se uno dice le cose che lui ha detto più volte nel corso di questi mesi e che ha ripetuto nelle ultime ore del partito al quale appartiene, bisognerebbe chiedere a lui: ma perché sta in questo partito? Poi immagino che in politica c'è sempre molto movimento, qualche volta addirittura convulso, e potrebbero determinarsi condizioni per le quali poi si prendono, del tutto legittimamente, certo, strade diverse. Dunque, per quello non credo che questa situazione sia destinata a durare per moltissimo tempo. Cioè lei all'interno del PD lei si sente molto più, per quello che pensa, eccetera, e Renzi quello che non è... Scusa, lei il gioco della... Ma guardi, c'è una contraddizione che però non sono in grado di chiarirle io. Il PD ha fatto un congresso. Sì. Si sono presentati poi, dopo il congresso, a candidati segretari delle persone diverse. Ignazio Marino, Franceschini, Bersani. Sì, sì, sì. Io al congresso ho votato per Dario Franceschini. Sì. Ha vinto Bersani. Bersani da quel momento è il mio segretario. E devo dirle che la gestione del partito, parlo della linea politica, del merito, delle proposte che viene fatta, la trovo convincente. Sì. Io non so per chi abbia votato Renzi, credo per Bersani, ma non ne sono sicuro. In ogni caso, se c'è un problema di difficoltà così profonda nel rapporto con il gruppo dirigente e poi con le cose che un partito propone fa, se ce l'ha lui, non ce l'ho cioè io. Uno, lei dice, per quello che pensa e per quello che dice, dovrebbe uscire dal Partito Democratico. Sarebbe naturale che uscisse? Non necessariamente, però dovrebbe spiegare per quale ragione, di fronte a scelte che lui contesta sistematicamente, non ce n'è una che condivide, e ha dirigenti che sono quelli attuali, che lui critica addirittura spesso mancando loro di rispetto, cosa secondo me che non si dovrebbe fare mai, come presuppone possa avere la sua presenza un futuro dentro il Partito Democratico. A quali condizioni? Certo, un'ultima cosa prima del traffico ed è questa: lei vede le idee di Renzi più vicine a quelle del centrodestra, per esempio, ad alcune posizioni del centrodestra? Ma io vedo enunciare ipotesi che non sono, come le dicevo, quelle del Partito Democratico, e che sono collocate in un'area di centro abbastanza indistinta, se vogliamo fare una classificazione per forza. Poi gli ho sentito dire cose che riguardano ad esempio l'economia, che riguardano il sociale, che riguardano il lavoro, che sono oggettivamente, per come sono state prospettate, molto lontane dal centro-sinistra e più vicine al centro-destra. Vuoi fare un'altra domanda intelligente delle tue, Parenzo? Ne ho fatta una al giorno, se ne può fare. Solo... No, ecco, capire siccome no, non su è Sacconi, facciamo su Sacconi. No, Sacconi, in realtà ha fatto già un'intervista a Quella della Sera questa mattina, però Sacconi ha fatto un'altra uscita oggi, ha detto che ci sono dei nuclei clandestini che operano per una rivolta. Lei che dice, Cofferati? Vede questa possibilità, vede questa minaccia? Ho sentito prima un'osservazione di Parenzo che questa sera è molto reattivo. Se ci sono problemi di questa natura, deve parlare il ministro degli interni, perché il ministro del lavoro, se sa qualcosa, lo dica in esplicito. Faccia riferimenti circostanziati, dica chi gli ha segnalato l'esistenza di questo problema, perché se non è esplicito, se non è chiaro e se non è supportato nelle cose che dovrebbe o vorrebbe denunciare anche dal Ministro degli Interni, a noi tutti resterà il sospetto che lui agiti questi temi semplicemente per cercare di condizionare il dissenso verso i provvedimenti che ha varato. Credo sia un sospetto comprensibile e legittimo. Cioè, il fatto che lui evochi l'esistenza di nuclei clandestini che operano per una rivolta, in realtà lo fa facendo un'analisi di quello che è successo a Roma, non è competenza sua, ma lui lo fa come strumento di propaganda politica. Ma non propaganda politica. Propaganda, insomma, per bloccare. Diciamo, per condizionare tutti quelli che non sono d'accordo con le cose che fa e che dovrebbero sentirsi intimoriti dalla preoccupazione di alimentare chissà quale azione violenta. Se lui sa delle cose le dica, in primo luogo le deve dire al ministro degli interni e poi quando ne parla pubblicamente deve circostanziare le sue denunce, se no, come le dicevo, io sono legittimato a pensare che in verità lui faccia annunci di questa natura, evochi problemi di questo genere per cercare di non lasciare libero sfogo al dissenso che pure c'è nei confronti dei provvedimenti del governo. O di annunciati provvedimenti del governo. Parenzo, che stavi dicendo? No, mi interessa, sì, su questa, ovviamente, su questa vicenda di Ciacconi mi pare abbiamo detto tutto. Mi interessava invece capire, siccome il PD, c'è le posizioni di Renzi. Però scusi un attimo, voglio tornare un attimo definitivamente su questa vicenda di Ciacconi. Però sì. È vero o no che possono esserci questo, visto quello che è successo a Roma, nella società, delle frange violente su questo tema del lavoro, che quando uno evoca riforme, insomma, corre un pericolo. Questo lei lo riconosce o no? No, che il lavoro o i temi che riguardano il lavoro possono coltivare nella loro analisi, poi anche nelle azioni di contrasto che si fanno, forme violente, non lo credo, non ci sono riferimenti storici. C'è la vicenda Biagi. Non mi perdoni, gli stessi che hanno ucciso il povero professor Biagi hanno ucciso il povero professor D'Antona quando non c'erano problemi che riguardavano il mercato del lavoro sul tappeto, dunque era un gruppo di mascalzoni, di delinquenti, di assassini che agiva per altri fini, che poi sono quelli che hanno esplicitato quando sono stati fermati. Beh, però lo hanno ammazzato anche per le sue tesi, per il libro bianco, per le riforme che ha fatto, eccetera. Non è che questo qua è abbastanza chiaro, non è che lo hanno ammazzato così perché era Marco Biagi, l'hanno ammazzato perché aveva un ruolo, perché aveva fatto delle cose. Ma guardi, il professor Tarantelli, il professor D'Antona e il professor Biagi erano persone che facevano un lavoro egregio. Sì. Di cucitura, se posso usare questo termine, tra esigenze della società moderna e le funzioni dello Stato. Sì. C'è un filo che collega questi omicidi, addirittura si potrebbe dire la stessa cosa per il professor Ruffilli, che era un costituzionalista che si occupava di temi ancor meno visibili ma altrettanto. Cioè, scusi, secondo lei l'omicidio Biagi non ha nulla a che fare con la vicenda del lavoro, cioè delle riforme del mercato del lavoro? No, ma che gli assassini cerchino argomenti e giustificazioni alla loro follia, è fuori dubbio, ma gli argomenti e le giustificazioni usati per Ruffilli, per Tarantelli, poi per tempi più vicini a noi, per D'Antona e per Biagi erano diversi, dunque non sono tutti riconducibili ai temi che riguardano la sfera del lavoro. Dunque oggi chi si occupa di queste cose non rischia, come dice Ciacconi? Il rischio c'è per tantissime persone che si occupano di cose che riguardano la società, che il rischio però sia quello che lui ipotizza, cioè che queste persone vengano uccise per il lavoro che fanno, sì. non è confermato dalle cose che la storia ci ha consegnato nell'arco degli ultimi tempi, ma insisto, se lui è convinto di tutto questo e ha dei riscontri, ne parli con il ministro degli interni o con la polizia, non può usare questo argomento per condizionare il dibattito politico, e se lo fa commette un errore grave. Se poi accosta la critica alla violenza, come ha fatto anche in tempi non lontani, rischia di essere di nuovo non soltanto portatore di un'ipotesi sbagliata, ma di incorrere in qualche provvedimento. Io personalmente l'ho querelato e il Tribunale di Torino l'ha condannato quando lui accostò la violenza alle politiche della CGIL. Mandante morale, no? Mandante morale dell'omicidio. La stessa cosa è capitata a Bossi e a Taormina, che sono stati condannati dalla Corte di Lussemburgo. Sì. Dunque. Che vuol dire, Parenzo, che siamo quasi in conclusione? Vendola, Bersani, cosa vuoi? No, su Vendola, sul fatto se in questo momento non si sente più vicino a Sella, alla fine, non è la sua casa naturale, forse, Sinistra, Ecologia e Libertà. Cioè, è un'ipotesi assurda, le primarie ci sono Vendola e Renzi, lei chi vota? Guardi, alle primarie ci sarà il segretario del PD, perché lo statuto del PD prevede che l'unico candidato per il PD alle primarie sarà il segretario. Lo so, ma non sarà così. Non sarà così, cioè secondo lei non si deve candidare Renzi per lo statuto, non si dovrebbe candidare? ma poi lo decideranno loro. Oggi per lo statuto non gli dovrebbe essere consentito. Ed è giusto così. Se si deciderà di fare una deroga allo statuto, sì, e Renzi si presenterà, io voterò per Bersani. D'accordo, ma secondo lei questa modifica va fatta oppure lo statuto è così e l'unico candidato del PD deve essere Bersani? A statuto vigente l'unico candidato possibile è Bersani. Eppure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di codesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Senti Bertinotti che parla di noi, senti, aspetta. Se diciamo le moltitudini, le zanzare, gli insetti diventano proprio davvero pericolosi per il potente, quella è una bella metà. Presidente. Hai capito? Certo. No, io lo farei risentire. Se le zanzare. Sì. Se diciamo le moltitudini, le zanzare, gli insetti diventano proprio davvero pericolosi per il potente, quella è una bella metà. Presidente. E così bisognerebbe essere, naturalmente alternando i nostri strumenti, ma un po' fastidiose per il potente. È quello che siamo noi. Allora, su internet circola che cosa? Che l'autore delle 100 proposte lanciate da Renzi sia Giorgio Gori. Sia Giorgio Gori, eh. Hai per caso il cellulare di Gori? Sai che l'ho visto lì, Gori. Vabbè, procurati il cellulare di Gori. Ha detto, ah, grande Cruciani. Sì, procurati il cellulare del signor Gori. Del signor Gori. Ma... Procura di qualche modo. Adesso me lo procuro anch'io. In realtà ce l'avevo, Vabbè, comunque. Ma anche se fosse. No, ma non c'è niente di male, così mica per capire. Bernardo Provenzano, ecco chi c'è dietro le proposte. No, di no, no. Una persona molto per bene, un imprenditore. Assolutamente, figura, faccio il tifo per lui. Ecco chi c'è dietro le proposte di Renzi. No, perché la rete la presenta così. Ecco chi c'è dietro le proposte di Renzi. Vabbè. Grillo, signor Grillo, se vado in Parlamento mi sputano addosso. Senti. Era detto, hai in onda, l'ha detto. Se questo movimento va in Parlamento, io devo espatriare, te lo dico qua, faccio la fila di Pannella, arriveranno, mi sputeranno addosso, mi diranno di tutto, lo so già la mia fine. Vabbè, Santoro, non capisco perché uno fa una trasmissione televisiva che ho già detto che avrà un trionfo pazzesco, sarà sicuramente straordinaria, bellissima, con servizi meravigliosi, scenografia strepitosa, eccetera, eccetera. Grande pubblico, secondo me, avrà, e sto parlando naturalmente di servizio pubblico di Santoro, e però deve dire che tutto il resto della televisione fa schifo. Io francamente questo non lo capisco. Questa TV fa schifo, schiaffo al potere, sentiamo. Da giovedì prossimo in poi è una giornata di sciopero perché la televisione che va in onda ci fa schifo. Noi vogliamo immaginare una situazione diversa. Quindi il giovedì sarà uno schiaffo al potere che ha voluto, diciamo, e che vuole costruire una televisione a sua immagine e somiglianza. Poi critica anche Renzi, noi sulla gru, non i frigoriferi. Le nostre intenzioni, povero, cioè fatto di elementi poveri ma artisticamente bello, dove non si ricorre, diciamo, ad un frigorifero in scena per rappresentare la realtà. Cioè le metafore che voi potrete trovare dentro la nostra struttura sono quelle di una televisione che sale sulla gru, così come sono saliti in tanti per fare sentire la loro voce. Adesso c'è proprio la televisione che sale sulle gru per farsi sentire. Ma vabbè, LG deve lanciare un nuovo prodotto. Sì, sì, no, ma assolutamente, per carità, tutto legittimo. Ingroia il caso. Dopodiché è vergognoso, però, che un prodotto è vergognoso. Ci sono dei bellissimi programmi di informazione come quello di Formigli, Ballarò e quant'altro. Però è vergognoso, ma dico vergognoso, cosa è vergognoso, che un prodotto come quello di Santoro, con grandi maestranze che ci lavorano come i cani, allora vai al sodo, non sia alla Rai, nel il servizio pubblico che avete occupato fare... con i vostri partiti. Ma di che parli? Sei impazzito? Pazzo, cioè no, io non ho occupato nulla. Abbi pazienza, il punto è questo: a me non mi va di tornare su questa vicenda. Ha fatto una... Sì, va bene, ma d'accordo. Se ti piace così, se ti piace quello spettacolo che c'è, guardati lo spettacolo, guardati quello che c'è. Maestro, sei partito per la tangente con questa cosa di Santoro, ma non c'entra nulla. Io vorrei, anch'io vorrei partiti fuori dalla Rai. Dopodiché, poi stiamo di nuovo a parlare nella vicenda di Santoro, di partiti. Qui c'è stato una scelta legittima di andare, è naturalmente un po', come dire, forzata, ma comunque Santoro è una scelta suicida. È uscito dalla Rai, ha fatto una trattativa con la 7 che non è andata a buon fine per vari motivi che non stiamo qui ad elencare. Ma forse guarda, lo faremo. È come il marito che si taglia i coglioni per fare un dispetto alla moglie. È una scelta intelligente, no? Va bene. Piace questa metafora. Andiamo a Cagliari, Cristian, buonasera. Sì, buonasera a tutti, chiaramente riscontatissimi complimenti. No, c'è il caso Ingroia, c'è il caso Ingroia. Ah, quello è importante. Caso Ingroia che si presenta al congresso del nostro amico Diliberto e dice che lui è partigiano imparziale della Costituzione. Eh beh, è giusto. Sentiamo. Sono quindi partigiano perché sono un partigiano della Costituzione. In questo non sono imparziale. Tra chi difende la Costituzione e chi la offende quotidianamente so da che parte stare. Tra chi difende il principio di uguaglianza e chi cerca di introdurre quotidianamente nuovi privilegi e impunità so da che parte stare. Vabbè, sono un comizio contro Berlusconi, questa è la sostanza dei fatti, eh. Cioè, ma perché devi dire? Ma perché è un comizio contro Berlusconi? Abbia pazienza, ma l'hai sentito o no? È un comizio. Ha difeso la Costituzione. Ma che ha difeso la Costituzione? Ma falla finita di dire stupidaggi. È un comizio contro Berlusconi. Evidentemente, io non sto dicendo niente di strano. È un comizio contro. Perché non riconosci una cosa molto semplice? Perché è un comizio contro Berlusconi. Detto, no, ha detto sono un partigiano della difendo la Costituzione. Vabbè, resta le cose formali, resta le frasi formali. Resta la Costituzione. Resta le cose formali. Bravo, certo che ha detto questo, l'abbiamo sentito tutti, ma che vuol dire contro quelli che ogni giorno eccetera? A chi si riferisce? A chi si riferisce? Sono politici che mettono in discussione la Costituzione. Vabbè, cerca di trovare un posto dove si sente meglio, andiamo a Cagliari allora, Cristian, dica. Sì, buonasera. Allora, guardi, io volevo fare un commentare un attimo la dichiarazione di Iacchetti, però come ho sentito il nome di Bertinotti sono impazzito. Cioè, perché? Ma Bertinotti ha semplicemente detto una cosa che peraltro, come è evidente, non si riferisce alla zanzara. No, ma che cosa le ha evocato, diciamo, il nome di Bertinotti? Spiego subito cosa mi ha evocato in due secondi. Mi ha evocato un articolo che ho letto sul Foglio parecchio tempo fa. Mi pare fosse un'intervista della moglie di Bertinotti dove si vantava del fatto che il marito non avesse concezione del valore del denaro, del tipo che lei gli dava 50 euro la mattina per le sue spesucce, tanto poi prendeva il giornale in giro, veniva accompagnato da tutti i suoi lacchè per le sue commissioni. Vabbè, ma ognuno ha i suoi difetti, no, qual è il punto? È la gente che doveva decidere se sulla vita delle persone quando queste persone gli viene chiesto, se gli viene detto che un operaio, magari un impiegato, guadagna 1.000-1.200 euro al mese, una persona che non ha concezione del denaro, che non sa firmare un assegno, può decidere su queste cose? Anche questo, no. Perché c'ha tutti i torti. No, ho capito, ma adesso cosa c'entra? Scusi. No, se è vera l'indesso, non me lo ricordo, l'intervista della signora Lella, se è vero che gli dava la mancetta la mattina, è una cosa abbastanza, come dire, no? Sì, d'accordo, ma qual è il... Cioè, voglio dire, di che stiamo parlando? E poi fai grandi ragionamenti sulla grande globalizzazione, con le grandi economie, grandi trasformazioni del paese. Sì, ho capito, però se non sai gestire il tuo denaro... Vabbè, adesso non esageriamo, su, adesso non sa gestire il suo denaro. Era vera quella... Ma sì, quella... probabilmente è vera, magari una persona abituata tutta la vita non, come dire, nemmeno a portarsi dietro il portafoglio. Dai, comunque, se ti piace così. Ma che cosa è che mi deve piacere in questo caso? Non è che voglio difendere Bertinotti. Se ti piace così, guarda. Vabbè, allora, Cristian, voleva aggiungere qualcosa? Ma di non parliamo. Sì, volevo poi di Iacchetti, che chiaramente... Ma che c'entra Verdini adesso? Sì. No, ogni tanto bisogna parlare di Verdini, secondo me. Allora, Verdini. Intanto c'è una notizia che arriva che riguarda Cassano, la vicenda di Cassano. La prima diagnosi fatta dai medici è di ictus ischemico. Vabbè, Cristian, dica. Per quanto riguarda Iacchetti, poi volevo dire che insomma non è che devono essere prese in considerazione più di tanto le sue dichiarazioni, visto che insomma chi l'ha incrociato ci ha avuto un minimo a che fare, si è reso conto che la maggior parte delle sue dichiarazioni sono piuttosto vinose, quindi piuttosto vinose. Vinose che vuol dire? Che è ubriaco? Per usare un eufemismo, sì. Eccoci, 800-24-0024. Parenzo, devo tirarmi su in qualche modo. Sì. Tu di solito che usi? Borghezio, no? Pronto? Mi senti Borghezio. O no? Ma ti sento benissimo io. No, io ti sento male. Di solito che usi tu, Borghezio, per risollevarti, no? Sì, io ci vorrebbe un bel Borghezio, quello ad esempio di Venezia, quello in cui invoca i famosi calci nel culo, per citare il signor Borghezio. Sì, sì, sì. Ce l'abbiamo quello? No, no, non ce l'abbiamo, però... La Lega per prima aveva individuato in Galeien, non ce l'abbiamo quello? No, no, non ce l'abbiamo. No. Senti, allora... senti, no, io invece in questo periodo mi voglio risollevare con l'Annarella e la moglie di Fede, la signora De Feo, Diana De Feo, sì. Signora, ma suo marito non si vergogna ancora a stare in televisione? Che fa schifo! Sono messa con una palla. Vuole che la meni? A me. Mio marito è stato. Sì, è una gran brava persona suo marito. Sì, è una gran. So fratelli! Ma vuole dire a questa signora che la deve piantare? Ma che ne fa? Ma che ne fa? C'è cannate! Caccia delati! Voglio punti fretta, ma troppo inizia la festa! Aspetta un attimo, Eccola, eccola. Chi è? Sì. Pronto? Pronto? Sì. Signora De Feo? Signora De Feo? Sì. Sì, sì. Senatrice, buonasera, è Cruciani dalla Zanzara, buonasera. Lorenzo, buonasera. Sì, buonasera. Come sta, signora? Disturbiamo? Bene, no, non mi disturba. È a cena, cara? No, no. No. Dove si trova? Lo possiamo chiedere? A Napoli? No, a Napoli. A Napoli. Bella Napoli. Ora che c'è De Magistris poi... Che c'entra? Ora dice Parenzo che ora che c'è De Magistris è ancora più bella Napoli. È pulita. Come la trova? Napoli è pulita? Beh, certe zone è pulita. Il centro c'è pulita. Poi basta girare l'angolo e ci sono i cassonetti traboccanti. Insomma, cioè, non è tutta una finta, no. Dice lei. No, no, non dico che è una finta, non sa quali sono le prospettive. Ecco. Quali sono? Ah, non sa quali sono le prospettive. No, per il momento si va avanti perché ci sono i presidenti delle province. Sì. Di, però questo De Magistris le sembra un buon sindaco, le sembra una persona capace, in grado di risolvere i problemi della città oppure un Masaniello? Ma, guardi, a Napoli ce lo dobbiamo augurare tutti, anche se io non sono convinta di certe sue dichiarazioni quando ha detto pulisco Napoli 4 giorni o che non vuole il termovalorizzatore, non si sa dove avevano messo la spazzatura, quando si aspettavano le navi olandesi che non sono mai arrivate, quando la zattera, quando si propose di mettere la spazzatura su una zattera in mezzo al porto, in mezzo al golfo. Ecco, queste cose non mi convincono, però... che posso dire, ci sono altre cose che mi fanno sperare positivamente, il fatto che lui abbia guardato nelle società partecipate sono piene di buchi e quindi che stia cercando di toglierle di mezzo alcune, di farle funzionare meglio. Questo mi sembra una cosa positiva. Vabbè, insomma, il giudizio è positivo. Elogio. La signora De Fè, la senatrice De Fè elogia De Magistris, benissimo, bello. No, un momento, no. Questo De titolo, il titolo un po' alla TG4. Allora, no, io pronto? Sì, ecco. C'è un titolo un po' così un po'. Ci sono, che come napoletana non posso pensare... Abbiamo solo da sperare che De Magistris speriamo, riesca certo. A fare miracoli. Ci sono cose positive che fa e altre che mi lasciano perplessi. Sulla questione della spazzatura io non vedo... Miglioramenti, non vedo, grandi miglioramenti. Non vedo no, per niente. Senta una cosa, una curiosità, ma quell'incontro che lei ha avuto per strada a Roma con la signora Annarella, no? È stata una cosa epica, cioè, nel senso che per carità deve essere stato anche fastidioso, però questa signora che staziona davanti alla Camera, davanti al Senato e cerca di pizzicare soprattutto deputati e senatori dell'opposizione, com'è finita poi? Ah, io gli ho detto detto, siccome insisteva, gli ho detto che devi piantarla, perché sennò se vuole che la meno, gli ho detto, l'avete sentito tutti, no? Eh sì, certo. Poi ho detto a un poliziotto che stava lì, dico, scusi, mi lasci passare. Sì. E basta. E basta. Beh, meglio non incontrarla un'altra volta, no? O sbaglio? Ma no, ma chi se ne importa? Non è questo il problema. Vabbè, è una signora un po' mattarella, ma, insomma. Ma è una provocatrice, basta, appunto. Allora, è pagata dalle sinistre? No, pagata dalle sinistre, Parenzo, perché dice una cosa? No, di... però, mi risulta che lavori per, non so come, Striscia Notizia o qualcosa di questo genere, no? Non credo. Ah, quindi pagata da Mediaset? No, Mediaset. Ma non lo so, io ho visto la mia intervista, è uscita sì, da Montecitorio, una cosa Striscia la Notizia. E poi non lo so chi l'ha fatta fare. Ma non credo che sia pagata da Mediaset. Non credo neanche io, guardi. È una vecchia signora un po' matta che si diverte. Esatto. Pagata dalla CGL, sono ma sicuro. Che è pagata dalla CGL? Sono certo, sono certo. Credo che la CGL ci abbia più serie da pensare in questo momento. Anche se non credo proprio che mandi in giro vecchiette impazzite. Va no, bene? Assolutamente. Senta, sì, senta, dice Feo, lei, come sta suo marito? Ecco, appunto. Bene, non lo vedete? Non lo vedete lavorare tutte le sere? Lotta come un leone. Ma quando è che molla il TG4? Sì. Quando è che molla? Non penso proprio che abbia intenzione. Quando si stuferà, siccome è un anno che non fa vacanze, forse un giorno o l'altro vorrà prendersi un po' di riposo. Vabbè, ma uno, insomma, arrivato a un certo punto, lascia strade giovani, o no, signora De Feo? Oppure ma tutta... quali giovani? Scusi, no, i giovani sono bravissimi. Appunto. Però considero mio marito l'unico grande conduttore di telegiornale, perché va a braccio... mette su un telegiornale con poche persone, cioè è meglio lui o Mentana? Scusa, il signor Mentana? No, il signor Mentana ha molti più giornalisti. Sì. È quello che sa Mentana è stato quando è stato un molto molto guardato al modo di condurre di mio marito, soltanto che parla in un modo, come dire, a mitraglietta. Ho capito. Conduce meglio suo marito o Mentana il telegiornale? Ma mio marito va tutto a braccio. Che significa? Che differenza c'è? Loro non hanno gobbo, non leggono niente. Suo marito è il numero uno, vuole dire. Suo marito è il numero uno da questo punto ma di vista. Non c'è dubbio. Perché la notizia si crea. C'è la differenza. È un uomo telegiornale, è un uomo che è incorporato nel telegiornale, il telegiornale è incorporato in lui. Ma come incorporato? Che vuol dire incorporato? Cioè si immedesima nel telegiornale. Vuol dire che lui fa il telegiornale con la disinvoltura di una grande disinvoltura e semplicità. Come la gente la gente lo segue perché è molto chiaro. Beh, è un po' faziosetto suo marito. No. Come mio marito non ne fa finta. Mio marito dice quello che pensa, non è che ho capito, finta. Però è un po' faziosetto, diciamo la verità. No, non direi proprio di no, non direi un po', no, un po'. Cioè equilibrato, dice lei, equilibrato. Molto equilibrato. Ma come molto equilibrato non si può dire, dai. Cosa pazzesca, vero? È il numero uno, ma non si può dire. Chi è che sta parlando dall'altra parte? Parenzo, il signor Parenzo. No, ma io sono un amico del direttore. No, ma noi siamo amici del direttore qui alla Zanzara, l'abbiamo spiegato. Però dire che è equilibrato è come dire... Insieme a Santoro, siete amici del direttore, insieme a Santoro. No, Santoro, siamo amici di suo marito. Siamo molto amici, Fede. Ah, ecco, no, perché è equilibrato mio marito rispetto a Santoro, poi è addirittura il vertice dell'equilibrio, ecco. Addirittura. Sì. No, vabbè. No, però scusi, cioè, come giornalista tra suo marito e Santoro chi è meglio? Ma che domanda, mio marito è un vero giornalista. E Santoro che è invece? Santoro mio marito è cominciato dalla cronaca da ragazzo al Messaggero, che aveva 15 anni, faceva il cronista da Ostia, e ha fatto tutta la trafila, tutti i giornali. Tutti? Ha passato 20 anni ha finito la Gazzetta del Popolo a Torino. Vabbè, pure Santoro ha fatto la sua carriera da giornalista. No, mio marito è stato inviato, ha fatto grandi scoop. Anche Santoro, Ma per carità, se lo sogna Santoro. E che... Io però, dico, scusi. Allora vi racconto una cosa. Sì, ci racconto una cosa. Se vuole ascoltarmi. Sì, ricorda quando in Africa sequestrarono 11 italiani durante la guerra del Biafra? Sì, sì, come no. Ecco, allora io ho perso le tracce. Lui era mi sembra, in Costa d'Avorio. Sì, sì. E cercava di entrare in tutti i modi in Biafra. Sì. E poi non c'erano i telefoni, nessuno sapeva niente. Sì. E un giorno, sì, un giorno mi telefonano e lui era riuscito ad entrare in Biafra. Era riuscito a infilarsi, a fare tre sì, tappe in aereo, sì, a rientrare con le interviste sì, a Fiumicino, al e quando sono arrivati sì, gli 11 italiani salvati, perché sì, c'era pena di morte, e anche lui era andato rischiando questo. Ma roba che Santoro se lo sogna, dice lei, no? Roba che... sì, e io arrivando, perché la RAI mi aveva detto che sarebbe arrivato, lui sì, invece era già in video nel telegiornale, era già in video. Ma roba pazzesca. Ecco. Allora, Santoro, no, voglio Santoro invece cos'è, al confronto cos'è? Un militante politico? Cos'è Santoro? Ma Santoro è un militante politico ed è un miliardario. Come un miliardario? Ecco, scusa, anche il signor Fede non è che fa la fame. Anche, Fede, no, non è, no, anche il signor Fede non è che guadagna due bruscolini. No, no. Mio marito fa il direttore del giornale e guadagna quanto guadagna un direttore di giornale. E invece Santoro, perché Santoro invece che Santoro, fa? Santoro, scusi. Oh, miliardi quando passa di qua, di là, si fa dare liquidazioni. Ma è una cosa normale. È non il che mercato. È il mercato. Molto ricco Santoro. E vabbè, ho capito. Mio marito è giornalista, l'altro fa non so che cazzo. Che fa? Come si può dire. E che fa? Punta sullo scandalo e, sì? e su quello guadagna moltissimo, passando dalla Rai a Mediaset, da Mediaset alla Rai, adesso dove sta non mi ricordo. Sta va cosa, scusa, le segnalo che sta facendo adesso una nuova trasmissione che si chiama Servizio Pubblico, che inizierà. Lo sa, grazie, no? Lo sa. No, sì, l'ho sentito, ma non credo che lo guarderò perché non mi interessa. No, non certo. Senatrice, io vorrei capire una cosa, ma lei, per esempio, che è ancora giornalista a TG1, è in aspettativa? No, io ho dato le dimissioni quando sono stata eletta, no, prima. Prima ancora di fare la campagna elettorale. Ma lei, per esempio, quando ci saranno le elezioni, chissà quando, l'anno prossimo, fra due anni, si ricandiderà, si vuole ricandidare, vuole fare? No, non lo so, non credo. Sto qui è sempre a Napoli, appena c'ho mezzo di tempo, perché mi seguo tutta la politica campana. Ma è vero che a certo punto va al TG4, va il vice direttore del TG4, sarebbe anche bellissimo, secondo me. Chi? No, potrebbe andare al TG4 il direttore Emilio Fede e vice direttore di Area De Feo, sarebbe meraviglioso, secondo me. Anche... sì, è meraviglioso, tutti i ragazzi. Senta, no, è che ecco, vede, io ce l'ho qua. Vorrei scrivere addirittura un libro sulle memorie di una senatrice, perché sapesse quanto sto lavorando sì, e che cosa sto facendo sì, perché faccio faccio un libro perché no faccio un libro. Nessuno sa niente, però io lavoro sì, e credo che la politica sì, è una missione sì, e che bisogna mettercela tutta sì, e per mettercela tutta io devo stare sempre in treno, in viaggio, una faticaccia. E non so se poi lo rifarò la prossima volta, non lo so. C'è troppa fatica, dice lei, troppa fatica. No, non me lo chiederanno nemmeno, quindi non mi pongo problema. Ma come, Berlusconi non la metterà in lista, addirittura? Non credo. Senta, comunque, amico mio, grazie per questo scambio. Sì. Adesso vorrei sapere, sì, che cosa... Dove che va? Chi è che precede e segue la mia intervista? Nessuno, è da sola con lei, siamo qui. Nessuno. Siamo Radio 24, siamo la qui. Zanzara. Siamo qui? Noi non è che vogliamo mandare via suo marito al TG4, per carità, no. Che resti lì per l'eternità. Però prima o poi sto passaggio sta da fare, o no? Ma che ne so, quando sarà? Parte del giornale, come lei lo vede, come l'ha sempre fatto, e credo che molti dei suoi telespettatori siano assolutamente, che il suo ascolto è consolidato, che i suoi spettatori siano. Ma poi qualcuno dice che quest'estate o addirittura prima dicembre, no? Lei lo sa, ma chi è che vuole prendere il suo posto lì? E lo sa che una signora di una, della Puglia gli ha lasciato un'eredità? No. Che dice che era l'amico di tutte le sere. Ma veramente? E mio marito, sì, la, e mio marito l'ha dato subito agli orfani dei carabinieri. E quanto gli ha lasciato? Quanto gli ha lasciato? Ah, non lo so, un appartamento, non so che cos'era. E anche dei soldi. Addirittura? Ha dato tutto agli orfani dei carabinieri. E suo marito, ma non ha bisogno di soldi in questo periodo? La difesa, il caso Ruby? Mio marito no, adesso è un gran tempo che non gioca più. Da quant'è che non gioca? Da quant'è che non gioca? Oh, saranno 20 anni. Beh, sì, 20 anni. Ma che 20 anni, su. Ma scommette come un dannato, scommette come un pazzo, lo dice pure lui, ce l'ha detto. Non lo so. Non lo so com'è. Ma quante volte? Ma quante hai il calcio? Sul calcio scommette, scommette. Ah, sul calcio si diverte. Non va più nei casinò perché non c'ha tempo. Ragazzi, vi ringrazio molto. Scusi un attimo, un'ultima cosa, ma è vero che lei si voleva separare da suo marito? È vero che lei si voleva separare? Ma neanche per sogno. Ma come neanche per sogno? Ho letto. Io stavo con Lilli Fabiani e sono andata a fare una protesta serissima alla sono andata a protestare. Pronto? A chi è andata a protestare, scusi? All'ordine dei giornalisti. Perché cosa? Perché mi hanno fatto dire il contrario di quello che avevo detto. Cioè, scusi, lei ha detto che voleva chiedere addirittura i danni, che voleva chiedere i danni. Ridevo con Lilli Fabiani su questa cosa, però si riguardava una faccenda di 5 o 6 anni fa e quindi raccontava una cosa passata. Invece ho ricorso, sono andata all'ordine dei giornalisti a Roma a protestare perché è stato fatto un falso con un lancio che mi faceva dire il contrario. Il contrario, vabbè, il contrario. Lei non ha nessuna intenzione di separare, non ha nessuna intenzione. Però suo marito con le donne è un po' discolo, diciamo la verità. È un po'. Ma io sono 40 anni che lo sopporto. È un po' birichino. Dica la verità. Quante volte, senatrice? Sì. No, dica la verità. Con l'affetto che ha nel cuore, quante volte l'ha beccato? Che magari qualche volta. Insomma. No, io non quante volte l'ha beccato con la mano nel cesto di mele, chiamiamolo così. O la mano nella marmellata. Guardi, la marmellata e il cesto di mele non mi interessa, io ho altre cose da pensare. Allora, vi saluto, vi ringrazio per questa volta. Noi tutti vorremmo avere una moglie come lei, questo è sicuro. Una che resiste a tutto quello che ha fatto il signor Lei Fede. È veramente una grande, è una donna eccezionale, perché stata vicino a suo marito sempre nella gioia e nel dolore, come dice Santa Romana Ecclesia. E questo è la base di tutti i matrimoni. Ho capito, però signora, qui le donne, sì, al signor Fede. Oh, Madonna, che volete farmi dire? Che sono un po' le oggettine, signora, le oggettine. Ma le qui oggettine. Voglio dire, le donne gli piacciono, non c'è dubbio. Le oggettine non c'entrano niente con mio marito, va bene? Adesso basta. Buonasera, un abbraccio, ciao. un abbraccio fortissimo. Grazie. La senatrice Diana De Feo, in fede. La Zanzara. Antonio da Lecce, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, Antonio. Cruciani, buonasera a tutti. Dica. Stasera ero appena smontato dal servizio, ho sentito la bella notizia tramite il programma di Sebastiano Barisoni riguardo l'acquisto del 19 Maserati dal Ministero della Difesa. Sì, non è una notizia di oggi, è una notizia di qualche giorno fa già. No, l'ho ascoltata, l'ho sentita questa sera ed è stato un pugno nello stomaco, perché dato che io appartengo alle Forze Armate e con l'aria che tira, con i sacrifici che ci vengono chiesti giornalmente, sentire questa notizia è stato veramente... Antonio, lei ha ragione, solo che questo acquisto era stato deciso prima stretta sulle macchine, no? Cioè non si possono acquistare più le macchine oltre i 1600 cilindri di cilindrata. Che cosa se ne fa il Ministero della Difesa di 19 Maserati quando ci vengono giornalmente chiesti sacrifici? Ci viene chiesto di lavorare oltre 67 anni, noi potremmo anche andare a lavorare fino a 90 anni, ma finché ci gestirà questa gente, noi non ne usciremo più, perché questa gente... Ma lei che fa di mestiere? Io appartengo alle Forze Armate. Cioè, che cosa fa? Il militare, cosa fa? Sì, sono un militare. È un militare. Sentita una notizia del genere, con i sacrifici che ci vengono chiesti ogni giorno, ci viene chiesto di risparmiare fino all'euro per le missioni, per le trasferte, per i mezzi di trasporto, e poi sento una notizia del genere e sinceramente io penso che tutti gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, una notizia del genere, un pugno nello stomaco, è un'offesa alla morale. Bene, grazie Antonio, sono d'accordo con lei, non c'era bisogno di fare questo acquisto, cosa vuole che le dica? È così, certe cose vanno avanti senza che nessuno intervenga, senza che nessuno si renda conto dell'effetto che fanno certe cose. Questo è il punto. Si potevano bloccare. Non lo so se si potevano bloccare, cioè non entro nel dettaglio, ma c'è ogni tanto, probabilmente era stato deciso prima questo acquisto, poi uno pensa alle Maserati e pensa a chissà che cosa, è evidente che una cilindrata di macchine magari corrisponde, solo che la parola Maserati evoca una cosa simile alla Ferrari, e la Maserati magari hanno una cilindrata simile, che ne so, una Mercedes o uno non so che, insomma i generali vadano in metropolitana, Parenzo, o sbaglio, i generali vadano in metropolitana. Adesso magari proprio in metropolitana no, però con una qualunque utilitaria, no? Una macchina. No, la una... loro utilitaria, però, la loro utilitaria. Sì, ma magari è un bene, come sono paragonati ai dirigenti, magari è considerato un benefit. Ma perché non ti sento stasera? Perché sei, ma da dove sei con lei? Ma io ti sento benissimo. Vabbè, magnificamente. No, allora dico, magari siccome i generali sono equiparati ai dirigenti, è evidente che magari è un benefit quello lì. Dopodiché in periodi di crisi e malattia è meglio, come dire, essere più statement e quindi usare macchine anche più piccole, anche sì, ma soprattutto bloccare questo acquisto, la Maserati evoca tutto. No, ricchezza, spreco di risorse, e poi per il Ministero della Difesa, per i generali, amico mio, ma servono i generali, beh servono i generali, sì servono, per carità. Gaetano da Brescia, buonasera. Chi è Gaetano adesso? Un ascoltatore. Pronto? Gaetano, mentre abbiamo già un ospite che ci aspetta, un ospite che insomma che gli ascoltatori della Zanzara ricordano bene. Io sono arrivato a questa festa di Halloween per mia figlia. Me ne frego. Gaetano da Brescia, buonasera. E dei padri, sì. Buonasera, pronto? Dica. Senta, allora, prima di tutto volevo ringraziare sia lei che il dottor Parenzo per la vostra trasmissione, perché permettete a tutti di poter dire ciò che vogliono, e non è una cosa da poco. Poi volevo una cosa che vi ho chiamato io era perché secondo la mia idea era che avevo pensato di dirle di candidarsi. Che io mi devo candidare, ma lei è completamente pazzo, Gaetano. Cioè, ma non ci penso nemmeno lontanamente. La ringrazio per questa proposta, per carità, che ovviamente sottende, se si può utilizzare questa espressione, una certa stima. La ringrazio, Gaetano, ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma io potremmo presentare la lista della Zanzara alle elezioni? Il manifesto, sì, il manifesto politico lo presenteremo a breve. Ecco, Alberto dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, allora, io voglio annoiarla un po', Cruciani, volevo parlare 30 secondi di Santoro. Veloce, dica. Allora, velocissimo, quando ho sentito Parenzo fare la solita elegia di Santoro, poverino, elegia del mercato, ho avuto una reazione orticarioide, io ogni tanto sono allergico e quindi ho queste reazioni. Allora, sono 20 anni che Santoro fa queste prediche pagate dal contribuente. Sì. Io non sento assolutamente la mancanza di Santoro, mi va benissimo qualcun altro, perché è giusto lasciare spazio agli altri. Vorrei Parenzo e Cruciani magari in prima serata sulla Rai. Vabbè, adesso non esageriamo, qui c'è chi propone la politica, c'è chi propone la prima serata. Beh, io propongo un'altra. Io sto toccando dappertutto qua, sto toccando dappertutto. Ma anche pure perché porto male, però al di là di questo, cioè non vedo perché un milionario come Santoro che fa politica. Ma che c'entra che è un milionario? Ma che vuol dire milionario? Ma perché c'è questa invidia? Ma si deve guadagnare? No, nessuna invidia, caro Parenzo. Io pago le tasse. E beh, che c'entra? Perché Santoro non le paga, scusi. E io pago la Rai TV e quindi posso parlare. Non posso parlare di altri canali, ma della Rai TV io posso parlare. Ma non è più alla Rai, peraltro, Santoro, per cui... Cioè, meno male. Per lei, secondo lei, meno male, d'accordo, per carità. Ognuno ha le sue idee, le sue sono assolutamente rispettabili come quelle degli altri. Assolutamente, però visto che Parenzo fa sempre regia... Io dico Santoro a casa. Ma c'è già andato. Infatti l'hanno mandato a casa, amico mio. E la Rai ha perso un grande talento. Amico mio, non mi interessa nulla della Rai. Vorrei che due reti Rai diventassero private. Anch'io sono d'accordo con lei, Alberto. Ma non c'entra con quello che lei ha detto, amico mio. Collegamento con Catania, credo. Con Catania. Nino Strano! Innanzitutto già un errore clamoroso. Qual è l'errore? Eccolo a Taormina. È a Taormina? Beh, bisogna precisarlo, assolutamente. Primo errore, prima pizzicata. Nino Strano, io voglio un bene a Nino Strano. Io pure, lo voglio abbracciare fortissimo. L'onorevole Strano... Come state? Piacere di sentirvi. Bene, bene, lei come sta? Bene, bene. Sento una cosa, poc'anzi vi ho detto sottendere. Ma il participio passato, sì, qual è di questo verbo secondo lei? Beh, non mi faccia queste domande complicate, Strano. No. Io lei è una... sottinteso, è un aggettivo o un sostantivo? No, me lo sto chiedendo. No, appunto, non lo so. Sottinteso è un sostantivo, credo. No? Sottinteso. Ma potrebbe essere anche un aggettivo, vero? Potrebbe essere anche un aggettivo, è vero. Dovete sapere che Nino Strano è una persona di una grandissima cultura, questo lo dico sul serio, non sto ironizzando come al solito, una persona di grandissima cultura che è stato protagonista di una cosa che lo marcherà, lui lo sa benissimo Strano, anche se si ribella a questa cosa, però è vero, lo ammetta Strano, una cosa che non so per quanto tempo la marcherà in modo così... Sì. Fatto della comunione, della prima comunione? No. Sì, è vero, bisogna marchiare vita. La mortadella, no, la mortadella. La mortadella. La mortadella al Senato. Io quando cade il governo Prodi. Quell'immagine. Ragazzi, ma se mi avete telefonato per questo, chiudo. No, eh. No. La mortadella già ne parlammo. Ne parlammo anni or sono ormai della famosa mortadella. Disgusting, come si dice? Però lo pronunci bene, disgusting. No, ho detto disgusting, io l'ho pronunciato benissimo. Ah, sono io che l'ho pronunciato male, dice lei. No, si dice disgusting. Ah, disgusting. Esatto, ho detto disgusting, infatti è lei che l'ha pronunciato male. Vabbè, è possibile. Allora, Nino Strano, Futura Libertà, sta per rientrare al Senato. Sta per rientrare al Senato dopo le dimissioni annunciate, non ancora formali, evidentemente, del signor Stancanelli, sindaco di Catania. Subentra Stancanelli, che effetto le fa, signor Strano? Insomma, sabato ho fatto un bel bagno al Lido dei Ciclopi. È stato bellissimo, ho preso 2 ore di sole. Ieri sono stato a Taormina al Granduca, sono stato con degli amici carissimi. Scusi, oggi ma lei che ho passeggiato sul corso. Nessuna eccitazione. Ma lei no. Che nella vita che cazzo fa? Scusi, Strano, per curiosità. Io? Il gaudente. No, io allora cosa faccio nella vita? Io faccio l'imprenditore. L'imprenditore, sì. Mi sono mangiato tutti i soldi con la politica, me ne fotto, perché è bello spendere i soldi, sì, quelli che si hanno. Certo. E sono della propria famiglia, ho dilapidato tutto. Dilapidato. Cosa faccio nella vita? Leggo molto. Legge, sì. Coltivo alcune passioni come quella dell'antiquariato, sì, e del cinema. Non fa niente, insomma, in sostanza. No, sto completando. Poi mi occupo, ho una società che lavora anche con l'estero di prodotti sì, agrumicoli, sì. Infatti a breve dovrò andare per lavoro negli Stati Uniti. Sì. Scusi, ma tornare al Senato, che se effetto le fa? No, se ne fotte oppure... No, mi fa piacere servire l'idea e la formazione politica. Cioè è contento di tornare al Senato? Mi fa piacere. Sta già preparando però tutto. Quando è fissata la RAN 3? Io sono molto agé. E quindi, ma che age? Quanti anni ha lei, Strano? Io ne dimostro 43, ma ne ho 61. Ne ha 61, eh? Però io sono... Lei sa qual è il mio cognome? Qual è? Gamesh. E il nome è Gilgamesh. Beh, questo è il senatore più kitsch che avremo nel Senato. Io direi eclettico. Eclettico. Ma sai chi è Gilgamesh? Gilgamesh, come no? È l'uomo eterno. Cioè? Ah, perché lei si vuole mantenere sempre giovane, dice. No, io non ha paura di invecchiare, mi dica la verità, ha paura di invecchiare. No, ma io non sto invecchiando. Non sono come Dorian Gray, non ho nessun ritratto in soffitta. È come Berlusconi, in pratica. Che... No, neanche, siamo diversi. Il suo nome inizia con la B, il mio volesse. Ho capito, ma Berlusconi vuole campare fino a 120 anni, come lei. Ma io invece non ho un limite, lui ce l'ha. Ah, è questa la differenza. Ma niente. Certo che va approfondita questa storia delle Maserati e al ministro della difesa, caro Parenzo. Va aperto un'indagine serissima, un'indagine parlamentare serissima. che è successo, senatore Strano, che il Ministero della Difesa si è approvvigionato con un bando del 2009 che non è mai stato interrotto, forse non si poteva fare, di ben 19 Maserati per l'utilizzo da parte, diciamo, di alti livelli del Ministero della Difesa. Ma sono carri armati? No, carri armati no, sono per girare per Roma, insomma, queste Maserati, in sostanza. Capito? Il suo amico La Russa, lei in che rapporti è con il suo ex? Ottimi. Io ho due amici nel PDL ai quali sono fedele nell'amicizia, nella stima, sono Stefania Prestigiacomo e Ignazio La Russa. Ah, per cui non è in... Chi è invece proprio che non sopporta nel PDL? Nessuno, perché guardi, allora le dico, io sono un po' estremista nelle cose, neanche nei sentimenti. Cioè, non è che lei mi ritorna, non è che lei mi ritorna col PDL, no? No. Allora, per carità, nella vita ci sono due sentimenti importanti, l'odio e l'amore. Sì. E c'è gente per destinare odio. Bisogna che uno stimi una persona pur odiandola. Invece l'indifferenza è quella con la quale io ricopro tanta gente che non stimo. Per esempio nel PDL che è proprio lei indifferente, proprio che non gliene frega. Quasi tutti. E Berlusconi? Una brava persona, a me fa simpatia, però non lo stimo perché lui è stato alla radice, secondo me, forse ho errato io, io chiesi scusa, è inutile, su quell'episodio dal quale lei... Della mortadella. Che lei ha citato. Mortadella e champagne. Lui allora in televisione, un uomo così bravo, secondo me, si fece prendere in castagna dal dottor Ferruccio De Bortoli. E mi ricordo, gli impuntarono... si dice in siciliano i con su questa domanda quando c'erano cose molto più importanti da fare. Ad ogni modo dovete sapere, cari ascoltatori, scusi un attimo, mi faccia un po' riassumere gli ascoltatori, che poco dopo la caduta di Prodi, in un dibattito da Bruno Vespa, se non sbaglio, in cui era ospite Berlusconi, Ferruccio De Bortoli disse: però presidente, questi che hanno festeggiato al Senato la caduta di Prodi con la mortadella, con lo spumante, non so con che cosa, non me li ricandidi. E Berlusconi, preso là sul momento, disse: no, si preoccupi. Insomma, e alla fine. Sa cosa mi dispiacque? Che Berlusconi, un uomo così di spirito, alla battuta pronta, si fece fregare. Si fece infinocchiare. Perché è un uomo che a me fa istintivamente fa simpatia. Poi non ho condiviso alcune cose perché non è stato capace di fare. Dunque, la colpa della sua non ricandidatura fu di De Bortoli alla fine, non di Berlusconi. No, perché De Bortoli ha fatto il suo mestiere, le liste non le faceva De Bortoli o Berlusconi. Ma lei poi tentò con Berlusconi di dire: ma guarda, è una... No, non fece nulla. Avevo altre cose, dimenticavo che io anche sono socio comandante in una agenzia di assicurazioni, quindi non sono nulla facente, ecco. Vabbè, comunque, lei rientra al Senato con che spirito, Strano? Cioè... Con lo spirito di sostenere Future Libertà. Ma non c'è Future Libertà, amico, diciamo la verità. Il mio carissimo amico presidente Gianfranco Fini, con il quale fra l'altro il giorno 12 faccio un po' di pubblicità, alle ore 17 sarà alle Ciminiere a Catania, una bellissima coincidenza col mio rientro al Senato. È già stato a Catania allora? 17. No, non era stato a Catania. No, la prima dico, volta è stato già 3 ore fa. Sì, io sono stato a Catania negli scorsi giorni, ora no, però sono contento che Fini venga in coincidenza del mio reingresso al Senato. Ma quando è che lei torna ufficialmente al Senato? Guardi, la situazione è questa, pare da un'agenzia di stampa, mi hanno riferito che il senatore uscente abbia presentato oggi alle 11.30 le dimissioni, credo quindi sarà questione di giorni, perché la Giunta o direttamente l'Aula dovrà prendere atto di questo atto e chiamare. Senta, se dovesse cadere Berlusconi, lei come festeggia in Aula? Non festeggerò perché non voglio farmi fottere ancora. Ah, non mi voglio fare fottere ancora, dunque nessun festeggio. Però lei mira a far cadere Berlusconi al Senato, come è evidente. Ma guardi, io miro a fare il bene del... No, però d'accordo, insomma, l'obiettivo... Però siete all'opposizione. Siete all'opposizione. Certo. È curioso che lei era in Senato quando era all'opposizione e rientra all'opposizione. La stanca litania, Berlusconi si dimette e deve cadere, mi convince poco e non la considero un'azione politica. Io lo dico a Fini, però. Produrre e cercare di incidere per migliorare i provvedimenti e farla di buono. Però glielo dica a Fini, perché è Fini che ogni 3 secondi... Fini anche è sempre detto che si aspetta un governo diverso, un governo attivo, un governo credibile. Però dice che Berlusconi si deve dimettere ogni... Sì, ma non ha detto che il male d'Italia è soltanto questo. Ci sono diversi incidenti di percorso di questo governo ed è importante che Governo si rimetta a lavorare o meglio Fini si deve dimettere? da Presidente della Camera? Assolutamente no, e poi Gianfranco sa cosa fare benissimo. Volevo capire dal, dal grande senatore Strano, noi seguiremo, faremo un'edizione speciale per Zanzara. No, quando... no, non mi prenda per il sedere. No, faremo un'edizione speciale della Zanzara, Breaking News, quando lei varcherà i portoni di Palazzo Madama. Ma al di là di questo, insomma, non davvero, detto tra di noi, ormai la situazione è finita, siamo fuori onda. Intanto non ci ascolta nessuno. Non siamo più in diretta, non siamo più in diretta, è finita la trasmissione poco fa perché l'hanno accorciata. Quindi ce lo possiamo dire. Tra di noi ce lo possiamo dire. Ha le mani, cioè Fini, presidente del partito, avrebbe le mani molto più libere in questa fase se non fosse la terza carica dello Stato. Su, è una sua scelta, sta intervenendo in politica sempre di più. Noi pensiamo che possono esserci le elezioni anticipate e quindi il presidenzialismo di Gianfranco Fini, che verrà appunto a Catania dopo essere stato a Palermo e sarà a Siracusa anche il giorno 12, è utile. È utile che rimanga Presidente della Camera. Per ora rimaniamo il Presidente della Camera, vediamo un po' cosa succederà nelle prossime settimane. Però Gianfranco sa cosa fare, io ho assoluta fiducia in lui. Senta, Strano, lei che è amico, come disse una volta, di che cosa? Amico di Froci? No, no, di Bukowski. Di Bukowski, amico di travestiti, troie omosessuali, no, così no, disse no, io conosco, guardi. Come io... no? Leggo qua, esteta fottuto, amico di travestiti, troie omosessuali. Bellissimo. No, no, no, allora. Ma guardi allora, che è bellissima, una cosa straordinaria. Badiamo bene. No, ma lei non mi sta dicendo nulla di offensivo. Appunto. Però quando lei cita il senatore della mortadella, io per garbo non le dico niente, però se lei mi cita, perché a me farebbe piacere anche che lei si informasse che ho fatto alle universiadi, ho organizzato stadi a Catania, piscine, campi d'atletica, ho rilanciato il turismo in alcune fasi. Ho capito, Strano, però non nascondiamoci dietro le cose. Lei è conosciuto in tutta Italia, è conosciuto per quell'immagine lì, poi io la conosco e lei è una bravissima persona. Però io le dico che se lei ogni tanto citasse anche qualche altra cosa che ho fatto, non è che stiamo qui. Lei non si è informato, perché sa, uno che ha fatto tanti stadi e tante opere pubbliche in Sicilia senza avere guai, credo che sia una persona anche che ha fatto qualche altra cosa. E poi per le amicizie, io grande cultore libertario e libertino di uno scrittore che adoro, che si chiama Bukowski, che il mio compagno di vita e il mio compagno di sonno, anche perché mi addormento leggendo lui, non perché fa dormire, ma perché lo leggo tanto che poi alla fine crollo stanco. Sì. In questo momento sto leggendo uno bellissimo, che sta falso, leggendo, glielo consiglio, molto simpatico, assieme a Gregory Corso, John Fante, Henry Miller. Berlusconi, in che cosa c'è qualche personaggio lei, della letteratura a cui lo possiamo paragonare? No, non ho mai fatto questo tipo di studio antropologico, né tanto meno intellettuale. No, vabbè, che c'entra, magari nelle sue letture. No, questo ecco, qua. No, volevo dirle sul mondo omosessuale. Sì. Io ho partecipato anche di recente, pur essendo un eterosessuale, al congresso dell'Arcigay, anche con un messaggio a Catania. Sono molto amico del presidente dell'Arcigay nazionale, l'avvocato Paolo Patanè, che mi circonda, ricambiato della sua stima, è una persona per bene. Se fossi stato al Senato avrei votato contro i provvedimenti omofobi che la maggioranza mette in piedi, per esempio? Perché giudico che questo sia un atteggiamento errato della maggioranza attuale, anche se alcune essere considerate più aperte, come quelle di centrosinistra, si sono comportate nella stessa maniera. Hanno fatto poco. Scusi un attimo, lei da senatore presenterebbe un disegno di legge sulle coppie omosessuali, sull'unione tra le coppie omosessuali? Sul matrimonio no, sulle coppie omosessuali sì, con uno strumento giuridico amministrativo tipo, che consenta, tipo quelli francesi, altri stati, un'unione, assolutamente. E guardi che io sono cattolico anche praticante. Bravo. E sa perché lo sono? Perché sono un grande peccatore, quindi ho bisogno di trovare il conforto. Che tipo di peccati fa? Tanti peccati. Però non contro alcuni, contro altri, spesso contro me stesso. Addirittura? Sì, ma non per peccati gravi. Guardi, di solito mi danno tre Ave Maria e un Padre Nostro, quindi è una cosa semplicissima da fare. Cioè peccati così veniali, non peccati... Veniali, però un peccatore... Peccati di letto ne fa. Anche intimamente, intellettualmente sono un peccatore, come lo era il mio amico Bukowski, tra l'altro. Il suo amico Ma Bukowski è una sorta di sua guida spirituale, cioè lei vuole portare... è una mia guida spirituale, lo adoro. E perché non va con Bukowski in Parlamento? Magari comincia perché è morto Bukowski. Bukowski. Ma no, con Bukowski, dico, con qualche testo. I libri, ma no, ce l'ho sempre a proclamare con me, qualche testo di Bukowski. Ce l'ho sempre con me. E beh, lui ha una bellissima di Bukowski, e che poi la gente... No, dica, qual è? Mi conosce poco, dice, durante la mia vita ho incontrato tantissime persone, ma pochi esseri umani. Questa è molto bella. Bellezza. Com'è, scusi, me la ripeto un attimo che ero distratto? Durante la mia vita sì. Ho incontrato e incontro moltissimi individui, tanta gente, ma pochissimi esseri umani. Ma pochissimi esseri umani. Bellissimo. Beh, sì. Bellissimo. A molto, me piace. Molto. No, no, no, ma non lo sto dicendo con ironia. No, perché rappresenta la verità anche per me. Mm. E per esempio Berlusconi, secondo lei a quale categoria appartiene? Berlusconi è talmente simpatico, è stato bravo, che è un essere umano. È un essere umano, eh? Beh, vede. Sì. Insomma, è tra i pochissimi esseri umani ha fatto, che lei... ha fatto molti errori Berlusconi. Per esempio, me ne dica uno, mi dica un errore. Mi dispiace per lui, quello di aver ceduto a De Bortoli, uno di questi. Il fatto di non averla ricandidata. Se l'è legata al dito. Ma è normale, uno fa una cosa del genere in Parlamento, festeggia, dopodiché arriva. Mi pare che ci sono gente candidata che aveva qualche scheletro un po' maggiore di un gesto estemporaneo. In modo simile, questa preferirei glissare. Parliamo di Bukowski. Glisson. Sa dove vado questo fine settimana? Dove va? In una zona in cui a festeggiare no, no, ma a riposare. Sto tornando da Varsavia, dove sì. Sono stato 10 giorni, città per il mio lavoro, sì. Collegata ai grumi, a casa di una splendida mia amica, giovane ragazza polacca, sì. Che mi ha ospitato. Con cui c'è una storia, no? Una storia con questa ragazza polacca? Sì, sì, sì, l'ho avuta, una storia importante, bella, sì. Giovane, molto giovane questa ragazza. Beh, non tanto, 23 anni. Beh, come non tanto? No, lei c'ha 60 come anni. Lotta? Lotta come un leone, c'ha 40 anni meno di lei. Come no, lotta? Non esageriamo, 38. Beh, 38 di meno. Ma lei è il numero uno, strano. La cosa pazzesca. È una cosa pazzesca. Ma scusi, Nabokov, Lolita, è un esempio. Però lì era minorenne, qua non erano minorenne. No, non era, ce la fa ancora. Ma ce la fa ancora alla sua età. Ma guardi, ancora anche senza additivi ce la faccio, cioè sì. riesco a resistere. Quante volte? Una sola, non due volte? Beh no, non esageriamo, quante? Insomma, una sola. Ringraziamo il Dio che ci dà la possibilità di fare quel poco che facciamo. Quel poco, cioè... Allora sono stato a Varsavia... Cioè una volta sola, scusi, no, voglio specificare... È una terra meravigliosa, terra sì. Piena di teatri, di gente che parla 4 lingue a 18 anni... Tutti interessati, no, poi donne bellissime, ragazzi. È una popolazione giovane. Eh beh, sì, credo. È certo che. No, voglio dire, è una terra di teatri, libri, cultura, però lei mi riesco a amico. Non ho sentito proprio... che ha detto. No, dico, una cosa meravigliosa, terra piena di teatri, piena di giovani, gente fresca, intelligenza, cultura, però lei va lì perché va lì. La mia... No, io sono stato invitato dalla famiglia di questa ragazza, è vero, capito, sì, certo. Perché avevo bisogno di stare un po' tranquillo, sì. E di concludere alcune cose di lavoro e parlare, sì. Con il nonno di questa ragazza, qua una persona in gambissima, ex sì. KGB, bravissimo, un comunista serio, sì. E poi questo fine settimana vado in una zona meravigliosa, sì. Che dove vado diverse volte l'anno a ricomprare le batterie, vado a Deauville. A Deauville, ma lei viaggia come un matto, eh? Sì, lei. Mi piace conoscere il mondo. Deauville è un posto storico, che lei conoscerà, si arriva col trenino dalla Gare Saint-Lazare di Parigi, col treno in 1:30, e la parte in cui ci andavano a svernare i grandi pittori, i grandi intellettuali. Deauville, sì, che posto meraviglioso. Vicino a Honfleur. Sa cos'è Deauville? La cittadina dove hanno girato Un uomo e una donna. Lei è giovane, sì. Non ricorda questo film meraviglioso, sì. Di Claude Lelouch, il quale proprio a Deauville c'ha un club, il Club 13, perché è fissato col numero 13. È una cosa pazzesca. Il senatore Nino Strano è il senatore sicuramente più colto della... Non c'è della... Non mi sfotta. No, ma sto dicendo la verità, ma lei è una persona, no, di grandissima cultura. Però io le voglio chiedere una cosa. Allora, siccome lei... Scusi, lei sa anche che qui a Taormina c'è stata una genia, da Von Kloden a Truman Capote sono stati qua a svernare. Beh, diciamo che lei è il degno, come dire, no? Continuatore, lo continuatore, dice continuatore di questa genia, di questa genia di geni, però c'è una ripetizione qui, insomma, piuttosto fastidiosa. Genia, diciamo di uno è un, sono due sostantivi che si adattano per scusi, senatore Strano, però dico, insomma, lei che ha evidentemente una storia con una ragazza che ha 38 anni meno di lei, un po' Berlusconi, sì, riesce a capirlo, no? Cioè, sì, quando no, riesce a comprenderlo nella sua, come dire, no, nella sua tendenza verso alla ricerca di donne più giovani, o sbaglio? Ma guardi, ho avuto anche relazioni con donne no, anche della stessa età, ma anche molto più grandi. Mia moglie, sì, era ma è viva, siamo in ottimi rapporti, sì, non l'ho mai chiamata ex moglie. Oggi festeggio il suo compleanno, ci siamo visti e ci siamo fatti, e le ho fatto gli auguri. Faccia gli auguri, abbiamo, anche da Radio 24. Abbiamo uno figlio. Ciao Mati, auguroni. Come si chiama, scusi? Mati, Maria Agata, il nome. Allora, della... facciamo gli auguri all'ex moglie del senatore Mati, Nino Strano. Si chiama, Mati. Maria Agata, Masi, detta Masi. Mati Pavone, tanto si può dire, non c'è Mati privacy. Pavone, benissimo. Mati, lei deve vivere in assoluta trasparenza. Perché assolutamente, quando... è un figlio meraviglioso che si chiama Giuseppe. Ma lei, per esempio, vorrebbe l'adozione per le coppie omosessuali? Sull'adozione non mi sento di rispondere, a gente è un argomento troppo importante. Però non la esclude, sono padre. Non si può escludere, insomma. Non si può escludere a priori, però mentre ho risposto di getto prima e sono convinto della mia risposta precedente, su questo sarei molto cauto. No, perché? Cauto. Cauto. Cauto, cauto, cauto. Oh, nel suo futurismo, i suoi no, voli. No, non ho detto di no, vorrei pensarci. Non ho assolutamente detto di no, però nella maniera più assoluta. Però di getto direbbe anche di sì, cioè no. Ma può anche darsi sì, no, però vorrei pensarci. Quando ho letto di diverse esperienze che sono andate bene, ma ho letto anche di alcune esperienze che non sono andate felicemente per i bambini, e da allora mi sono posto anche se... Per esempio, ho visto e conosco, per discrezione non faccio il nome, anche dei grandi uomini di cultura italiani, molto vicini, sì, dei registi cinematografici che hanno adottato persone in tarda età e sono state queste persone da single, molto grate e sono cresciute molto bene e si è creata una simbiosi, quasi una famiglia bella. E quindi io ho persone a me vicine, ripeto, del mondo della cultura, hanno avuto esperienze positive, che hanno fatto questo gesto, ripeto, non posso dire i nomi per motivi di privacy, però forse voi immaginate, ma anche sindaci di importanti città hanno fatto quest'atto e sono state ripagate le persone adottate con grande amore e grande affetto. Senta, ma Stancanelli che personaggio è? Non lo conosco, non ho idea. Ma lei ha detto voi una cosa... Radio 24, la Zanzara, conoscerete sicuramente, io non lo ricordo. Scusi un attimo, lei dice: subentra un uomo di poca consistenza, ricco di una umanità eventuale, nutro pietà per le stampe appese alle pareti della sua casa. Dio lo perdoni. Allora è quello, ecco, non avevo capito. Il nome, questo, com'è il nome? Stancanelli. Stancanelli. Stancanelli, il sindaco di Catania. Allora è quello, sì. No, perché io a casa... Insomma, io guardi, per regolarmi su chi sono le persone, guardo le scarpe, se sono quelle a punta di vernice, se sono cancellate per me, e l'arredamento di casa. E Stancanelli che arredamento ha? Ma io ricordo così, un arredamento che a me non piaceva, ecco. Può anche darsi che a lei piaccia. A me no, io non lo so, non ci sono mai andato a casa di Stancanelli. No, arredamento di stampe, manifesti politici ed altro. In una segreteria politica vanno bene, in una casa credo di no. Questo è un gusto personale. Come ho definito l'umanità? Cioè, ricco di una umanità eventuale. Molto bella questa espressione, è mia, vero? Infatti si autoesalta. Sono stato bravo. Un uomo di poca consistenza, addirittura. Beh, non è un insulto, perché si può essere consistenti o poco consistenti, o molto consistenti. Qual è il metro per giudicare? Può essere che poco consistente è positivo. Non credo proprio. Insomma, quando si dice è molto bravo, ma qual è il termine di paragone per dire se uno è molto bravo o poco bravo? No, tutto relativo nella vita. Sa come diceva, gliene do una che è strano, sai come diceva il grande Winston Churchill, di grande livello. Ecco, il grande Churchill, quando perse le elezioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, vinse Clement Attlee, laburista. Sì, ricordo, tutti si aspettavano che vincesse a mani basse, invece perdette per motivi economici. Il signor Churchill, dopo l'intervento di Clement Attlee, lo liquidò così: disse, è un individuo modesto, non privo di ragioni per esserlo. meraviglioso. Condivido, si potrebbe adattare a diverse persone. Che un altro mio amico ha detto una cosa bellissima. Posso dire anche che Tommaso Saiti di Cudia delle Chiuse, ah beh, lo conosciamo bene. Una persona delizioso Tommaso. A proposito di una persona di cui parlavamo prima, disse: beh, quello non è un bifolco, oserei dire un trifolco. Il terrore dei mariti, no? Il terrore dei mariti. Il terrore dei mariti. Sì, trifolco. Beh, questo è stupendo. Ne ha conosciuto una vista di tutti i colori e ne ha fatte di tutti i colori il signor Staiti. Beh, signor Tommy è un grande. Lo saluto. Ciao Tommy. Ci ascolta sempre. Buonasera, Tommaso Staiti di Cudia. Adoro Tommy Staiti di Cudia delle Chiuse. Delle Chiuse. Ma lei, i titoli. Lei senta, mi poi vi posso dire una cosa? Sì, mi dica. Non dite devo dire. Come devo dire? Ah, devo non, dire che devo non dire dite che devo dire, perché questa cazzo di frase che si usa oggi, devo dire, è brutta, uno è dice brutta. Basta. Sì, è vero. Scusi, perché ma lei 30 anni fa nessuno diceva devo dire, oggi tutti devo dire. Ma lei mi è ancora un po' fascista? Ancora si ricorda di quel periodo, diciamo, si ricorda, no, perché è giovane. Ma io sono un bambino, come posso ricordare? No, vabbè, nel senso ha un po' di no, è ancora un po' fascistone lei o no? Ma io sono fascista, cosa significa? Cioè, che cosa potrei anche essere un po' comunista, a me piacciono, cioè ogni tanto i popoli hanno bisogno di una catarsi, sì, cos'è sì. La catarsi? L'annullamento, cioè odio i rituali, i riti, mi piacciono i riti pagani, sì. Come i riti cattolici, la simbologia mi piace molto, sì. Però sono stanco di sentire i tavoli, gli stati generali. Oddio mio, no, anche che poca fantasia. Tutti che fanno tavoli, quando vedo alluvione delle Cinque Terre, tavolo a Palazzo Chigi, sì, tavolo sì. Alla Regione Liguria, tavolo. E dietro questi tavoli ci sono centinaia di persone che non fanno un cazzo. È vero, senatore, e poi appena uno deve risolvere un problema di una città, un comune, una provincia, convochiamo gli stati generali. Sì, quello è in modo per dire che non si fa nulla, assolutamente. bravo, assolutamente adoro, nulla. Cioè, ma che c'è bisogno dunque in quest'Italia? Un po' di sano, che ne so, no? Ci vorrebbe, guardi, lui un io, po'. Ripeto, scusi se mi permetto, prego, di citare, prego, quello che ho fatto pochi giorni fa. Ho visto, sono andato a visitare il Palazzo Reale, sì, della famiglia Poniatowski a Varsavia. Marsavia. Lei sa che la Polonia a un certo punto della storia scomparve, fu divisa dalla Prussia, altre cose, e però la gente era orgogliosa di essere polacca, o quanto Madame Curie prese, che stava vicino alla piazza centrale, il Nobel disse io sono uno scienziato, sono una donna, ma sono polacca pur non essendoci oggi la mia terra. No, ho visto cosa hanno fatto, hanno ricostruito il Palazzo Reale, questi giovani anche durante il comunismo, il comunismo lo permise, il comunismo fece anche tante cose buone. Poi io parlavo con i tassisti, mi dicevano che stavano meglio durante il comunismo, guadagnavano molto di più. Senta un poco, ed allora, per dire che sono aperto a giudizi su tutte le ideologie, anche quelle sbagliate, che hanno ferito l'umanità. Benissimo, questi ragazzi hanno, sa come hanno rifatto il Palazzo Reale? Come l'hanno rifatto? Con tutte le fotografie che hanno avuto e hanno rifatto gli affreschi. Un amore per l'altro, questo amore da noi non c'è. No, è no, tutto no. Finto. Io quando vedo quelli là che si mettono la mano sul cuore con l'inno di Mameli, mentre nel frattempo penso, vediamo come devo trombare stasera, come devo rubare, cosa devo fare, mi viene una pietà tremenda e mi sento molto Kerouac quando mi dico: ma tu dove vivi? On the road, lo preferisco. Il senatore on the road, Nino Strano. Concludiamo con questo. Strano, senta, lei che ha, insomma, ripeto, questa relazione con una ragazza molto più giovane, la invidio moltissimo. No, l'ho avuta. Vabbè, l'ha avuta, ce l'ha uguale. Sì, però siamo vicinissimi. Siete amici, siete ancora. È il giorno 3, no, si sta laureando a Catania, bravissimo. Siete trombamici, come si dice in gergo tecnico. Allora... Si sta laureando in giurisprudenza, è bravissima. Allora io dico una cosa, ma l'ha aiutata lei, Strano, aiuta a laurearsi? Assolutamente no, conosco tutti i professori perché oramai appunto sono miei, anche più giovani di me, non miei colleghi. Non l'ha aiutata per niente. Quasi tutti. No. Però Berlusconi che va con ragazzi più giovani, lei lo capisce, riesce a capirlo o no? Riesce? Perché non si scenda sotto una certa età, perché quella dei 18 anni la considero una soglia per me invalicabile. Invalicabile, per cui tutto il resto lo capisce benissimo, no? Tutto il resto va benissimo. E tutto il resto è anche noia, tutto il resto è noia. Ah, è vero, tutto il resto è noia. E questo Bocchino che vita fa, signor Bocchino? Oggi l'ho sentito, Italo Bocchino, è in gamba. Italo è bravo, siamo molto amici, gli voglio bene. Si è fatto fotografare un po' troppo quest'estate però, eh? Si è fatto beccare la signora Began anche. No, marito è un grande, è saggio e bravo. siamo molto in gamba e spero che saggio, anzi, non lo so. Italo, per favore, vieni anche tu il 12 con Gianfranco a Catania. Va bene. Ma cosa fa questi appelli? Non lo so, appelli anche. Grazie, Senatore Strano, un abbraccio. Ragazzi, buon lavoro, sempre con voi, un piacere chiacchierare. A Roma, quando è di nuovo al Senato, venga a trovarci a Roma, grazie. Con piacere, arrivederci, arrivederci. Saluti. Mauro da Milano, 800 24 0024. Sì, buonasera, buonasera. Signor Mauro, dica. Ho sentito via telefono la trasmissione al posto che la radio, è già qualcosa. Questa. Meno male, sì. No, la mia è un'osservazione molto seria, perché se io volevo parlare di queste famose automobili che il ministro La Russa si è permesso col portafoglio degli altri di fare quello che voleva. Ma col portafoglio degli altri, non è che se le portate a casa 19 Maserati. No, nel senso che c'è comunque qualcuno che nel nostro governo, che è il ministro Tremonti, che cura un po' tutte queste andirivieni di questi soldi, le pare. Vabbè, allora? Voglio dire, ma il ministro Tremonti non è andato a prenderlo di petto quest'uomo qua, l'ha rovesciato come un calzino al ministro La Russa. Ah, per queste, ma per queste Maserati, dice lei. Certo, cioè, voglio dire, ho capito. Ma che è una roba vecchia che risale a prima delle ultime indicazioni di Tremonti, così sembra. Poi fosse per me, le ripeto, Mauro, dovrebbero essere eliminate tutte le auto di servizio, tutte, dalla prima all'ultima, no, limitate a quattro persone, cinque persone, il resto, tutti con la macchina loro, tutti con i mezzi pubblici, guardi, tutti in metropolitana. Abba pazienza. Io, dottore, lavoro in politica, sono dipendente di un partito. Dove? Che partito? Che partito? Non ha importanza. Ma come non ha importanza? Mica partito, è... dica. Ma non è mica un mistero. Noi utilizziamo le nostre macchine personali, andiamo in giro, portiamo chiunque in Lombardia e ci danno come. Ho capito, Mauro, che partito è? Lì. Ma, cioè, ma che c'entra? No, non ha importanza. Ma questo sarà il Partito Democratico. Vede, vuol dire che c'è qualcosa di serio ancora nel Partito Democratico. Certo, ah, che una cosa del genere Democratico non l'avremo ancora fatta, le pare, non ci sarà un mai permesso per una cosa del genere. Ma non lo so, adesso non sto dicendo quel partito o quell'altro partito, sto dicendo semplicemente che gli alti dirigenti di aziende pubbliche, alti dirigenti, naturalmente devono avere la macchina, per carità, altissimi dirigenti. Ma 3-4 dirigenti per ogni azienda, l'amministratore delegato, il presidente, non tutti gli altri. Abbia pazienza, pubbliche, aziende pubbliche. 19 Maserati, ma su, ma di che parliamo? Ma dai. Ascolti, appunto, adesso questo è un fatto che però non ne hanno parlato, è tutto rimasto su chi va là, qualcuno ha parlato sui giornali, ha detto piccole cose. Cioè, mi faccia dire, io mi auguro che questi ascoltino la vostra questi trasmissione. Chi? I grandi interlocutori politici che abbiamo e che sentissero un po' anche attraverso questa radio cosa ne pensiamo noi. Cioè, ma questi generali o chi per loro, se salissero su un blindato cingolato, andassero in giro, che sono dei militari, non sarebbe meglio che una Maserati? Abbia pazienza. Vabbè, che c'entra? Quello è un altro discorso. Non è che possono girare per Roma con i cingolati, abbia pazienza. Secondo me Pisapia è la miglior cosa che devono, ma che c'entra che Pisapia, devono tenere. No, perché loro hanno tagliato tutto. Ma che significa? E vanno in giro con queste macchinine qui, tutti quelli che devono andare in giro. Pisapia, Pisapia. Tantissimi milioni, abbia pazienza. Vabbè, Mauro, lei è dipendente del Partito Democratico a Milano, ha votato Pisapia, adesso ci fa l'elogio dell'amministrazione Pisapia. Roma, Fabio. Eccomi, sono pronto. Dica. È un'ora che volevo dire la mia su queste 19 Maserati. Innanzitutto sono contento che sono Maserati piuttosto che Audi o BMW, è già qualcosa, almeno questi soldi restano a casa. Seconda cosa, ma perché tutti i vertici istituzionali hanno l'auto blindata, i generali no? Ce l'ha la Camusso, ce l'aveva Epifani, ce l'hanno i capi dei sindacati che c'entrano loro con lo Stato. È un generale dell'esercito che rischia, perché se torna al terrorismo, ricordiamoci di Dozier, dei colonnelli. Vabbè, e dei generali che rischi un generale dell'esercito, insomma, adesso fa ridere. Ah, cioè, qualche rischietto ce l'hanno, mica. Un generale è sempre una figura istituzionale. Vabbè, comunque adesso senza fare distinzioni, caro Fabio, senza fare distinzioni. Certamente la questione delle Maserati colpisce l'immaginario, no? Ma è una macchina italiana. Sì, ma d'accordo, certo. Se uno una bella macchina, e poi è stato fatto un concorso, mica ha scelto qualcuno la Maserati, è stato fatto un concorso e c'era Mercedes, BMW, Audi. Maserati ha vinto appena una volta ha vinto la Maserati, e andiamo a fare tutta la questione. Quando togliamo la macchina alla Camusso, ma perché devi togliere la macchina alla Camusso? Togliete la macchina blindata alla Camusso. Ma la Camusso la pagherà la CGL, ma no, la con i suoi bilanci. No, lo paghiamo noi, perché quello che paga la CGL sono soldi nostri, dei lavoratori come me, belli, non cambiamo le carte in tavola. Togliete l'auto blindata alla Camusso, allora pure a tutti i generali, ai politici e tutti. ma fino a che un sottosegretario gira con la blindata, non dico un ministro, dico un sottosegretario, allora è giusto che ce l'ha pure il generale, ma a sto punto pure il colonnello, se andiamo a vedere. Quindi via alleato a tutti, ok, ma se la lasciamo ai sottosegretari, alla Camusso, a tutti gli altri vertici più o meno istituzionali, pure il generale dice, ma io mica so cretino, scusa. Poi io rischio pure di più di qualcun altro, no? Chi è che fa un attentato alla Camusso? Difficile. A un generale qualche matto potrebbe pure pensarlo, Succedono queste cose in tempi critici come questi. Va bene Fabio, grazie. Lei dice, se togliamo, se la togliamo ai generali, togliamola pure a Susanna Camusso della CGIL. Ma sono principi e cose un po' diverse, insomma. È vero che, anzi, rischia molto di più la Camusso che non un generale. Io non so nemmeno se abbia un... sì, probabilmente la CGIL per il segretario ha una... ma come no, certo che la scorta, la CGIL è certo che no, la ma scorta. La scorta è una cosa, l'auto è un'altra. Se no, parlando... la scorta, l'auto di servizio, ma non è una Maserati, ha una scorta, certo, una macchina di servizio. Renato, provincia di Brescia. Renato, provincia di Brescia. Pronto? Sì, dica. Mi sente, buonasera. Ascolti, io volevo parlare di Ingroia, ma volevo fare un piccolo inciso su Cofferati, che mi pare che all'epoca, non, prima della morte di Biagi, non aveva dei rapporti così idilliaci con il fu il gius lavorista. E quindi sarebbe piaciuto sentire cosa ne pensava a proposito di quello che disse all'epoca su Biagi. Chiuso la parentesi, volevo dire su Ingroia questo: premesso che non credo che il dottor Ingroia abbia sia depositario di ciò che sono le leggi giuste o le leggi sbagliate, vorrei chiedere al signor Parenzo come si esprimerebbe, visto che ha sostanzialmente detto, che mi sembra aver capito, non vorrei sbagliare, che Ingroia si è comportato correttamente, molto correttamente. Ecco, vorrei sapere cosa penserebbe se un magistrato, magari che sta indagando su qualche funzionario del PD, andasse in un congresso del PDL e dicesse che alcune leggi sono giuste, condivisibili, eccetera, eccetera. Ma non c'è nulla di strano. Guardi che non c'è assolutamente nulla di strano, perché Ingroia ha detto che difende la Costituzione, no, che ci sono, questo ha detto. Ingroia ha detto, dai, che su, lui ancora di nuovo con questa storia, ha detto che difende la Costituzione contro gli attacchi che vengono chissà da dove. Certo, su. Dopodiché lui applica la legge, non è che fa disobbedienza civile sulla legge, che è anche tu ingiusta, sei che viene applicata. Incredibilmente, come dire... fermo alle parole formali, cioè alle parole. Ma scusami, un magistrato che dice difendo la Costituzione. Un magistrato che va a un congresso di un partito è una cosa sbagliata. Un magistrato in servizio che va al congresso di un partito, di qualsiasi partito si tratti, un magistrato in servizio a parlare di Costituzione, a parlare di non me ne frega di cosa, è sbagliato. Punto. È sbagliato. Sì, Mirko da Rimini. Io non sto dicendo che è un criminale, sto dicendo che per me è sbagliato, punto. Punto e basta. È per sbagliato. Me è un cittadino prima di tutto. Oddio mio, ma che perché ti fermi di fronte a queste cose così formali? Ma è evidente che è un cittadino. È evidente che è un cittadino, ma che cos'è? Un animale, è un cittadino, certo che è un cittadino. Giudicare, quindi come cittadino ha diritto di Ma cosa di vuol parlare, dire? Ma certo che ha diritto di parlare, ma nessuno gli toglie il diritto di parlare, dopodiché nell'ambito del nostro mestiere, ognuno di noi ha dei limiti. Ha dei limiti che non sono nella legge. Ma non sono nella legge, non sono limiti di legge, nessuno gli impone nulla. Culturali o etici. Vabbè, che ha superato Ingroia. Se ti piace così, ti piace così. Sì, sì che mi piace. Se così. Ti piace così. Mi piace così. Certo, Mirko da Rimini, Mirko, se i giudici ti piacciono così, se ti piace no, così. Mi piacciono se fanno delle figure. Se ti piace così, se Ingroia ti piace per così. Per quello che fanno, per loro Mirko operato da Rimini, del... ma infatti non sto dicendo che nel suo operato è un criminale, sto dicendo che la sua imparzialità è fortemente sospetta. E cioè, quindi le sue sentenze non lo sono so, non lo so, ideologia. È meglio non andare ai congressi dei partiti a dire delle cose esplicitamente contro il governo. Mirko da Rimini, ma pronto, se ti piace così, va bene. Sì, Mirko da Rimini, pronto, buonasera. Sono qui. Buonasera. Dica. Dunque, siamo in campagna elettorale. Che vuol dire? Siamo in campagna elettorale, le dichiarazioni di Sacconi cominciano con la strategia della delegittimazione. Degli avversari. Quali sarebbero gli avversari? Ha semplicemente detto che secondo lui c'è un pericolo di terrorismo. Se uno. Ma un pericolo di terrorismo? Chi gliel'ha detto lui che c'è un pericolo che di terrorismo? Lo saprà. Ma lo saprà, se lo sapeva. L'esperienza del passato. Le autorità competenti. L'esperienza del passato. Invece che andarlo a sparare in televisione, scusi. Allora, ma quale sarebbe la delegittimazione? Procedura corretta. Ma quale sarebbe la delegittimazione dell'avversario? Mi scusi. Quale avversario? Addosso alla sinistra si comincia a dare addosso. Ma veramente non è dato addosso alla sinistra ai comunisti? Abbia pazienza. Secondo me sì, perché le manifestazioni che ci sono state in piazza non erano sicuramente di gente di destra. Va bene, comunque delegittimazione degli avversari. Grazie. Nino da Messina, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Sì, io buonasera anche al suo simpatico amico. Sì, vada veloce che devo chiudere. Lo so, lei deve sempre chiudere quando lo so. No, lei lo sa bene perché mi conosce. No, non lo so, non la conosco, caro Nino. Sì, Cruciani, io. Ma non la conosco. Sì, non mi conosce. Non la conosco, no, abbia pazienza. Non... Va bene, scusi, sono stato infelice. Io sono rimasto, diciamo, sorpreso per come lei ha liquidato l'intervento di Antonio Ingroia. Sì. Vabbè, è il solito attacco contro Berlusconi, ma come dalle cose che ho sentito era un attacco contro Berlusconi, poi avrà detto mi anche permette, altro. Mi permetta, Cruciani, non è così. Posso essere d'accordo con lei che il fatto che sia condivisibile o meno il fatto che lui vada al congresso di un partito. Sì. Ma le parole e il senso delle parole di Antonio Ingroia è stato abbastanza lapidario. Poi domani le sentiamo meglio, Nino, perché io ho fatto sentire un passaggio che mi sembrava un attacco a alcune politiche del governo. Ci sentiamo domani, Lorenzo, 18:30, ciao. Se comunque a lei le piace così, se le piace questo spettacolo qua, se le piace, va bene. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. La patonza deve girare. Radio 24. La passione si sente.